Iniziando la Santa Messa dicevamo che la parola d'ordine nell'attesa del Santo Natale è questa: Gesù viene con tutte le conseguenze. Se viene bisogna attenderlo, bisogna accoglierlo, bisogna fargli festa, bisogna prepararsi. Gesù viene. Domenica dopo domenica vedremo di colorare un aspetto diverso. Domenica scorsa le letture ci dicevano che Gesù viene alla fine del mondo. E io sottolineavo che per me la fine del mondo è quando io morirò, perché il sole sorgerà ancora per gli altri, ma per me si concluderà la mia vita in questo mondo per cominciare quella nell'altro mondo. Oggi qual è l'aspetto che sottolineiamo? Non so se voi avete colto che Gesù viene ma annunciato da alcune persone. Cioè Gesù è venuto nel Santo Natale, Gesù ritorna, Gesù però si è sempre affidato a dei testimoni, a dei profeti. E nel Vangelo abbiamo sentito che il primo era Giovanni il Battista, quale dice nel Vangelo: ecco, io mando dananzi a te il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E dava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Allora noi dobbiamo cogliere questo invito. Gesù viene con Giovanni Battista e ci dice: raddrizza la tua strada, convertiti, chiedi il perdono dei peccati. Amici, dobbiamo ricordare che il battesimo ci ha cancellato tutti i peccati. Ma quelli che abbiamo commesso dopo il battesimo li cancella la confessione. È molto triste sentire persone che dicono: io non ho peccati. È triste perché sono persone bugiarde, non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Chi dice di essere senza peccati è un mentitore. Magari uno non sa andare a scovare i propri peccati, allora si affidi all'aiuto di un sacerdote. Dunque Gesù viene e ci chiede di convertirci per mezzo di Giovanni. Nella seconda lettura, Efesini capitolo 3, versetto oggi, Paolo dice: io sono l'ultimo fra tutti. Perché lui conosce bene la sua storia, lui era stato un persecutore, però è stata data a me una grazia di annunziare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo. Io mi sono fermato su questo aggettivo, le ricchezze impenetrabili, nascoste, ma vere. Cari amici, io vi auguro non solo di credere in Gesù, se siete qui a Messa è perché credete in Gesù, ma di cogliere ciò che sta sotto, il tesoro che dovete scavare. E non ci riuscirete con le mie prediche, amici, men che meno se non le ascoltate. Ci riuscirete se voi scavate dentro nel Vangelo. Io vi auguro di imparare a venire in chiesa anche quando la chiesa è vuota, non come alcuni che dicono: io non vengo a messa perché mi danno fastidio gli altri, preferisco passare dentro da solo. Non in quel senso, perché noi siamo un popolo e quindi dobbiamo vivere come popolo la messa. Ma in più dobbiamo trovare quei momenti nostri in cui stiamo a scandagliare la parola di Dio. Io ho la fortuna di incontrare, non qui in parrocchia perché è una parrocchia molto striminzita la nostra, ma di incontrare tanta gente su WhatsApp. Pensate che io anche questa predica che faccio poi la inoltro, ho 650 contatti a cui arriverà questa mia predica. Io non so, almeno un terzo la ascolteranno. E qualcuno mi risponde, mi chiede preghiere. E io quando vengo a dir messa porto qui nel calice le preghiere che ho promesso a gente magari di Brindisi, a gente di Melbourne in Australia, o di Sacramento in California, o di Napoli. Ma non saranno convinti dalle mie parole. La gente sarà toccata se riesce ad approfondire lei la parola di Dio. Ed è per me una gioia quando magari qualcuno mi scrive: Don, ha visto che bella la seconda lettura di oggi? E me lo scrive uno che fa il metalmeccanico, Perché tanto sul cellulare tu trovi tutte le letture, e questo prima di andare a messa la legge. È un godimento per un sacerdote, amici, queste sono le gioie del prete. Quando le anime colgono le impenetrabili ricchezze di Cristo. E infine faccio un terzo passaggio. Il Signore ci parla attraverso i Suoi messaggeri anche oggi. E i messaggeri di Dio oggi sono di due categorie: i santi e il popolo semplice. I santi, io vi auguro di saper ascoltare, leggere, vedere le parole, i filmati dei santi. Io, che il medico mi dice di fare ciclette tutti i giorni, mentre lo faccio mi guardo dei filmati e non finisco, perché ci sono varie versioni, di vedere Padre Pio, Don Bosco o Francesco. Adesso sto leggendo, sto vedendo il filmato Francesco di Liliana Cavani, un gran bel film, perché questi sono personaggi così grandi che i registi non si stancano di rifare film nuovi. E io, vedendo Don Bosco, vedendo Padre Pio, vedendo Francesco, sento che Gesù mi bussa alla mia porta e mi dice: Ambrogio, e tu? E tu? Ma oltre a questi grandi personaggi, amici, ci siete voi che siete messaggeri di Gesù Cristo. Non è così ogni papà e mamma che battezzano un figlio, che gli insegnano le preghiere, che lo tirano su, insegnandogli la vita cristiana. Anche voi siete messaggeri di Gesù Cristo. Anche voi siete gente che dice: Gesù viene, figlio mio. Vi voglio raccontare un episodio che mi è successo poco tempo fa. Una mia ex parrocchiana mi telefona e mi dice: Don, fa una preghiera per mio marito. È gente che ha quasi 80 anni. Fa una preghiera per mio marito che è molto grave. E dico: guarda, te lo prometto, e lo faccio a ogni messa. Pochi giorni dopo mi telefono e mi dice: mio marito è partito per la casa del padre. Allora io le dico: senti, ma mi pare, lei la conoscevo molto bene, il marito no, non andava in chiesa, era un milanesone laico di stampo agnostico, quei milanesoni che permette alla moglie di andare, che non la rimprovera per niente sulla sua fede, che però lui dice: no, Dico, tu non hai un paio di figli anche? Sì, li vuoi chiamare qui? Io uso molto la videochiamata di WhatsApp perché mi pare di aver lì le persone di fronte. Allora quelli arrivano dentro nel riquadro del cellulare e io a loro faccio una lode della loro mamma. Dico, ragazzi, io non vi conosco, papà l'ho conosciuto appena appena, però sappiate che avete una mamma santa, perché vostra madre ha seguito il papà non solo con fedeltà, ma con dedizione tutta la vita, anche se suo marito non condivideva la sua fede cristiana, pur lasciandola libera. L'ha seguito nelle ultime fasi della sua vita, voi sapete quante ne ha passate il papà, ma soprattutto, dico, lentamente lei lo ha portato a Gesù. Mi diceva vostra mamma che quando lei ascoltava i miei audio, delle mie prediche, delle mie catechesi, lei lo faceva lì dove c'era suo marito, il quale faceva finta di non ascoltare. Però non le ha mai detto, chiudi, vai nell'altro locale. Era sempre lì, faceva il sornione e ascoltava. E poi mi diceva la mamma, vostra mamma, che da un po' di tempo, quando andavano a letto, dicevano le preghiere insieme. Caspita, quando ho saputo questo ho detto, ma questa qui è una testimone di Gesù Cristo. Questo è un profeta di Gesù Cristo. Amici, ancora oggi che parlerà di Gesù Cristo non è solo Paolo, non è solo Giovanni il Battista, è la santità del popolo cristiano, è l'augurio che faccio anche a voi.